Sembra una cosa facile, sì, potrà diventare facile un giorno, ma sul principio avrete da lottare contro tutti i diavoli. Quei diavoli con i quali avete fatto amicizia quando avete peccato, ora sono tutti lì che non vi lasciano bruciare le vostre sozzure, non vi lasciano bruciare i vostri rifiuti. Fanno di tutto per dirvi: ma che pentirti, vai a letto che sei stanco, tu dormi che ne hai diritto, che andare in cerca di un crocifisso per baciarlo, che vuoi che ne faccia Gesù Cristo dei tuoi baci. Come sono canaglie questi demoni. Prima ti ingannano in un modo, poi ti ingannano nell'altro, prima ti spingono al peccato e poi ti allontanano dal pentimento. Attenzione, o si brucia di qui o si brucia di là, eh? Nulla di inquinato può raggiungere il cielo, il pantano, non lo vedrete mai nelle nubi. Il pantano, la melma resterà qui sulla terra. Nulla di inquinato raggiunge il cielo. O tu bruci nel pentimento queste miserie o te le porti dietro come una lebbra. E qui io non finirei se avessi il tempo di narrarvi fatti a me testimoniati da persone che sapevano il fatto loro e altri fatti capitati a me di qualcuno che fu colto dalla morte improvvisa nell'atto di peccare. Questi si è portato all'altra vita la lebbra del peccato, che è il rifiutare Dio, non volere la grazia di Dio, volere il peccato, volere Satana. E ciascuno va alla casa che si è costruita. Tu ti sei costruito il tuo paradiso, quella è la tua reggia. Ti sei costruito l'inferno, quella sarà la tua fiamma. Dice Gesù Cristo nella parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro. Il ricco epulone, ingiusto e disonesto, dal cuore tirchio e tacagno, è nell'inferno e grida: qui, brucio, crucior in lingua latina, crucior in ac flamma, io qui brucio come una fiamma. O si bruciano qui i nostri rifiuti, o lassù non si arriva. E ne porteremo le conseguenze nella dannazione. Oh, Dio non voglia. Allora, fuoco lento, il martirio del fuoco lento. Ogni giorno bruciare la nostra zavorra. Ho visto qualche giorno fa come sta entrando pian pianino la consuetudine di non lasciare rifiuti nei giardini, sui monti, lungo i prati. Tutti si sono messi d'accordo, pian piano. Allora vedete che c'è la gente che accende qualche focherello in posti adatti. Ne avete visti anche voi salendo da Cerro fino qui. Avete visto che questi comuni hanno stabilito anche lungo la strada dei caminetti protetti da pietre che non si incendi il bosco, dove uno può bruciare anche i suoi rifiuti per non portarseli dietro chissà dove, ma non lasciarli in giro ogni giorno, ogni giorno. Siamo contenti noi quando sentiamo il camion vicino alla casa nostra in Viale Vaticano 50, Roma. Sentiamo che passa quello che raccoglie i rifiuti, perché si respira subito meglio quando quei cassonetti vengono portati via, vuotati, eccetera, e quelli detriti vengono inceneriti. Si respira meglio. Ecco la dolcezza e la suavità di questo lento martirio della nostra coscienza. Una volta che tu incenerisci tutte le sere i tuoi sbagli morali, i tuoi errori morali, tu senti che si rinnova la tua giovinezza. Tu senti che diventi innocente. Ti sei accaparato il bacio della misericordia.